Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. La voce di Nando Martellini, che annuncia la vittoria dell'Italia nel campionato del mondo di calcio di Spagna nel 1982, è entrata a far parte della storia moderna del nostro paese. Sono in molti a parafrasare l'articolo 1 della Costituzione italiana, dicendo per scherzo che l'Italia è una repubblica fondata sul calcio. La passione per quello che è considerato lo sport più importante del nostro paese è così forte da unire uomini e donne, giovani e anziani, nord e sud. Una vittoria è ancora più sentita, tanto più arriva inaspettata, proprio come è accaduto in occasione del Mondiale di Spagna. L'analisi di Carlo Onesti è precisa a questo riguardo. La marcia di avvicinamento della nazionale italiana ai Mondiali di Spagna non fu diversa da tante altre marce di avvicinamento, nel senso che è stata sempre una nostra abitudine, un'abitudine tipicamente nostrana, avvicinarci ai mondiali all'insegna più del pessimismo che dell'ottimismo. E l'Italia partì per la Spagna accompagnata dalla contestazione, accompagnata dalle critiche, e indubbiamente, in maniera paradossale, il fatto che abbia iniziato i mondiali con 3 partite non convincenti non ha fatto altro che cementare il gruppo attorno a Berzot, e questa molla psicologica è stata vincente poi nel proseguimento del torneo. Capitano della nazionale campione del mondo è Dino Zoff, uno dei 7 giocatori che costituiscono il cosiddetto blocco juventino. In difesa ci sono poi Gentile e Cabrini. Sulla fascia corre avanti e indietro Tardelli. In area staziona come centravanti il piccolo ma velocissimo Paolo Rossi, Pablito, come lo hanno soprannominato gli spagnoli. Il centrocampo, invece, è controllato da un giocatore che ha conquistato di diritto la maglia da titolare e che della Juventus ne diventerà il capitano 2 anni dopo. I compagni di squadra lo chiamano Gae, diminutivo del suo nome di battesimo, ma per tutti è il numero 6 più famoso della storia del calcio italiano. Gaetano Scirea. Gaetano Scirea. E sin da piccolo, ecco, dicevo, mi piacerebbe fare il calciatore, poi da grande addirittura ci sono riuscito a farlo, per cui ecco, io penso che sia un sogno. Gaetano Scirea è di Cinisello Balsamo, proprio a 2 passi da Cusano Milanino, dove abita il suo futuro allenatore, Giovanni Trapattoni. Figlio di operai, la sua è un'infanzia del tutto normale, vissuta tra la scuola e il campetto dell'oratorio di San Pio X, dove inizia a giocare a pallone per la squadra della Serenissima. Ci sono persone che nascono con un talento naturale, e così ci vuole poco a Gaetano per arrivare a giocare in Serie A, prima nell'Atalanta e poi a soli 21 anni nella Juventus. Scirea è un ragazzo semplice, tranquillo ed educato. Gioca in un modo elegante e preciso e in poco tempo incanta i tifosi di tutta Italia, tanto da meritarsi la chiamata in nazionale per i mondiali d'Argentina del 1978. Berzot, che lo ha praticamente fatto crescere nella sua nazionale, era un ragazzo molto giovane, lui l'ha sempre considerato un angelo piovuto dal cielo. Lui lo vedeva giocare in punta di piedi, no? Alcuni lo chiamavano la Carla Fracci del calcio, perché correva in punta di piedi, a testa alta, non guardando mai il pallone, quindi quando doveva impostare, naturalmente, per quando doveva difendere non era così, certamente. La voce che avete ascoltato è quella di Mariella Scirea, la moglie di Gaetano. Destini incrociati l'ha incontrata a Torino, in una bella casa piena di fotografie di una giovane coppia, unita dall'amore e dalla comune passione per il calcio. L'approccio che Gaetano ha con il mondo del calcio è molto diverso da quello a cui ci siamo abituati in questi ultimi anni. Fin dai primi calci dati nel campetto dell'oratorio, Scirea non perde l'entusiasmo, grazie al quale ha trasformato la passione di bambino in una professione. È un lavoro che io amo moltissimo, forse questo entusiasmo che ho che mi porta poi a fare certe cose, ecco, perché io penso che se uno non lavora con entusiasmo, non lavora con voglia, io penso che di risultati ne faccia ben pochi. E di risultati Scirea ne ottiene sin dalla prima stagione alla Juve, con la vittoria dello scudetto e guadagnandosi di diritto quella maglia numero 6 che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. Scirea, per tutta la sua vita, riesce a mantenersi con i piedi per terra, senza lasciarsi abbagliare dal successo e dalla fama. Intanto bisogna partire dall'idea che mio marito ha sempre dimostrato, ed era così, un ragazzo molto pacato, molto sensibile. Un ragazzo veramente della porta accanto, no? Che oggi credo che manchi questa figura nell'ambito dello sport, no? In modo particolare del calcio. Un ragazzo che effettivamente, come diceva lei, aveva grandi obiettivi, grandi sogni, ma che nella sua semplicità credo non abbia mai esaltato, perlomeno ha sempre sognato probabilmente di raggiungere certi livelli con il calcio, no? Però probabilmente sognato senza mai pensare di poterci arrivare così facilmente. Il mondo del calcio è cambiato molto in questi ultimi 20 anni, come traspare anche dalle parole della signora Scirea. L'avvento delle televisioni e degli sponsor capaci di creare personaggi ancor prima che campioni ha stravolto e cancellato il vero significato del gioco stesso, che dovrebbe essere una sintesi tra attività atletica e mentale, un controllo totale delle proprie forze messo a confronto con quelle dell'avversario all'insegna del reciproco rispetto. Valori che oggi vanno scomparendo, con giovani accecati solo dal miraggio di diventare ricchi e famosi, ai quali non interessa neanche di entrare a far parte della propria nazionale. Oggi si rinuncia ad andare a giocare in nazionale. Ai tempi di mio marito si cercava di dare il massimo nel proprio club per poter essere convocati in nazionale, perché il ruolo di questa benedetta capitano, questa fascia che mio marito e tutti allora desideravano poter mettere, no, su questo braccio, questa fascia allora era una fascia azzurra, blu, ed era una cosa, un raggiungimento di un sogno, o perlomeno un premio, no? Per chi poteva avere questa fascia, perché voleva dire che effettivamente rappresentavi gli altri tuoi compagni di squadra, ed eri una grossa responsabilità. Seguire logiche senza ragione. Mentre Gaetano Scirea prosegue la sua carriera nel calcio italiano, a Liverpool, e più precisamente ad Anfield Road, Bob Paisley, uno dei più importanti dirigenti e allenatori del calcio inglese, sta costruendo una squadra che passerà alla storia. Una squadra di campioni, a cominciare dal portiere Ray Clemens e dallo storico attaccante Kevin Keegan. Kevin Keegan trying his tricks and there's the floating cross again. Oh, and yes! In difesa, nel ruolo di terzino destro, gioca un ragazzo prelevato dalla quarta divisione inglese per 66.000 sterline e che trascorrerà quasi tutta la sua carriera da giocatore con la maglia dei Reds. Questa peculiarità, che gli vale l'appellativo di Mister Coerenza, lo porta anche a indossare la fascia di capitano e a diventare in poco tempo una leggenda del calcio inglese. Il suo nome è Phil Neal. Phil Neal. Quando sono arrivato ad Anfield nessuno mi conosceva e devo dire che l'accoglienza non è stata delle migliori. Il mio ingaggio era stato definito di basso profilo. Prima di poter scendere in campo e giocare una partita ho dovuto aspettare più di 4 settimane e sono stato informato della convocazione solo un paio d'ore prima dell'inizio del match. Malgrado questo inizio in sordina, Neal fa presto capire alla dirigenza dei Reds di avere centrato gli acquisti di uno dei giocatori migliori della storia del club inglese. In poco tempo si conquista il posto da titolare nella difesa del Liverpool, diventando il principale riferimento del reparto difensivo che negli anni 70 ha fatto impazzire gli attaccanti di tutto il calcio britannico. Con 365 presenze consecutive in campionato, dal 74 all'83, Neal ha stabilito un vero record, adattandosi con estrema facilità a entrambi i ruoli di terzino, anche se il lato preferito è quello del terzino destro. Nella mia carriera ho visto avvicendarsi molti giocatori sulla fascia sinistra del campo, ma il mio numero 2, beh, quello me lo sono conquistato da solo e nessuno è riuscito mai a togliermelo. Almeno finché sono stato in grado di giocare ad alti livelli. Un terzino che sa anche farsi apprezzare per l'istinto del gol, dal momento che nella sua carriera Neal ne ha segnati ben 60, la maggior parte dei quali su calcio di rigore. Indimenticabile resta lo storico penalty con il quale mette al sicuro la prima vittoria in Coppa dei Campioni nella finale di Roma del 77 contro il Borussia. Nel 1984, a Roma, il Liverpool vince la sua quarta Coppa Campioni contro la squadra di casa di Pruzzo, Ancelotti e Conti. Neal è protagonista nel bene e nel male, segnando l'iniziale vantaggio dei Reds, ma compiendo una disattenzione sul pareggio della Roma. In occasione del gol, molti miei compagni si sono chiesti: ma che ci faceva Neal lì in mezzo all'area avversaria? Perché non è rimasto in difesa? Beh, quando giochi una finale di Coppa dei Campioni, puoi anche cercare di renderti libero, di raggiungere una zona del campo dove nessuno si aspetta di trovarti e di inseguire un sogno. L'unico rammarico che ho di quella partita sta nel fatto che il cross del pareggio è arrivato dalla mia parte e non sono stato capace di fermarlo. La partita termina ai rigori e alla fine la delusione per la squadra di casa è fortissima. Il Liverpool vince la sua quarta Coppa dei Campioni e Neal stabilisce il record imbattuto di aver giocato e vinto tutte e quattro le finali. Neal è un uomo semplice, senza manie di protagonismo, che vive il calcio in una maniera sana, con un fortissimo attaccamento alla maglia dei Reds. La sua grande forza risiede senza dubbio in un alto livello di autocontrollo, che lo porta ad affrontare con calma e precisione ogni intervento difensivo e a mantenere le redini della difesa anche quando l'intera squadra è sotto pressione. Grazie a queste qualità, Neal raggiunge in breve tempo anche la convocazione in nazionale, con la quale gioca 50 partite. Tutte le qualità di Neal sembrano trovare una grande similitudine con quelle di Shirea, due persone diverse, ma che in realtà hanno tantissime cose in comune. Sì, perché Shirea e Neal rappresentano un esempio di calcio pulito, umile, due cavalieri che combattono singole battaglie con un codice d'onore che oggi sembra ormai dimenticato. Entrambi attaccati alla loro divisa, entrambi simbolo di una nazione e di un ruolo, entrambi spinti dalla semplice voglia di giocare una partita con l'idea che si tratti veramente e solamente di un gioco. Ma la loro passione per il calcio non ha fatto i conti con un terzo incomodo, un soggetto estremamente negativo con cui il mondo del calcio deve convivere e contro cui si combatte da anni senza riuscire a sconfiggerlo definitivamente. Strathclyde police had been tipped off that hundreds of English supporters were heading for Scotland for the sole purpose of causing trouble. Il termine hooligan deriva dal nome di una famiglia irlandese, gli Hoolihan, residenti nella zona sud-est di Londra. La famiglia Hoolihan si è distinta per la sua violenza durante le sommosse che nel 1898 hanno caratterizzato la fine del regno della regina Vittoria. In realtà, già nel 1890 si ha notizia di scontri durante una partita di calcio con fuga rocambolesca dell'arbitro per non essere linciato dalla folla, inferocita e fuori controllo. Ma è in epoca più moderna che l'hooliganismo diventa un vero e proprio fenomeno sociale. A partire dagli anni 60, i danni provocati dai tifosi delle squadre inglesi diventano sistematici e organizzati. Gruppi di tifosi che affondano le loro radici culturali nel mondo degli skinheads e in tempi più moderni nel malessere sociale provocato dalla crisi economica, trovano la loro unica ragione di vita nel sostenere la propria squadra e manifestare violenza contro i sostenitori di qualsiasi squadra avversaria. A onor del vero, bisogna dire che questo non è un fenomeno esclusivamente inglese. Anche nel resto del continente accadono alcuni fatti che dimostrano che i gruppi di tifosi, per lo più in preda agli effetti dell'alcol e alla trans agonistica, diventano incontrollabili se non vengono presi degli accorgimenti preventivi da parte delle forze dell'ordine. Sono ripresi questa mattina nel carcere di Buoncammino gli interrogatori dei 14 tifosi inglesi bloccati venerdì dopo la prima notte di incidenti in via Roma-Cagliari. Il magistrato che conduce l'inchiesta ha ancora 24 ore per convalidare i fermi fatti dalla polizia. Ieri l'autorità giudiziaria britannica ha inviato alla procura del capoluogo sardo i certificati penali degli inglesi fermati. 8 di questi hanno precedenti per reati contro l'ordine pubblico. Ai mondiali del 1990 in Italia, la nazionale inglese gioca il girone preliminare in Sardegna. Le autorità italiane ritengono che in questo modo i tifosi siano più facilmente controllabili e in effetti questa scelta si rivela vincente. Tuttavia, proprio a dimostrazione che l'hooliganismo non è un fenomeno esclusivamente britannico, Milano viene messa sotto assedio da gruppi di tifosi tedeschi e olandesi che il giorno della partita si scontrano in battaglia proprio all'ombra della Madonnina. Ad Anfield, lo stadio del Liverpool, la curva dei tifosi di casa si chiama The Kop, in onore della collina sudafricana dove morirono molti soldati provenienti da Liverpool nella seconda guerra anglo-boera. Secondo le note di colore della tifoseria locale, i tifosi della Kop possono risucchiare la palla in rete quando il Liverpool attacca verso la porta sotto tale curva, a sottolineare l'entusiasmo con il quale i fan sostengono senza sosta la loro squadra. Non camminerete mai da soli. Recita così la canzone che si alza dagli spalti dell'Anfield all'inizio di ogni partita. Questo attaccamento alla squadra porta così i tifosi del Liverpool, come quelli di ogni altra squadra inglese, a seguire e sostenere i giocatori in ogni trasferta delle coppe europee. Nel 1985 il Liverpool ha già vinto 4 coppe dei campioni. Il girone di qualificazione viene superato con facilità. Il Liverpool è senza dubbio la più forte squadra inglese del momento e il gruppo di giocatori, tra cui c'è anche Phil Neal, sta attraversando un ciclo storico. La squadra si avvia a disputare la finale per conquistare la sua quinta coppa. Anche la Juventus si sta avvicinando alla finale. La squadra è fortissima, ma non ha mai vinto la Coppa dei Campioni. C'è andata vicinissima nel 1983, quando però esce sconfitta nella finale di Atene contro l'Amburgo, che vince con un gol di Magath. Magath, Schüsse aus dieser Distanz hat der HSV hier gestern Abend geübt. Quella squadra forse meritava una Coppa dei Campioni, meritava forse già ad Atene, perché in quegli anni era, quell'anno era la squadra, in quegli anni la Juventus era la squadra più forte in assoluto in Europa. Io ricordo quella vittoria contro l'Aston Villa, insomma, allora c'erano delle squadre inglesi che erano veramente inglesi e le squadre tedesche erano veramente forti. E noi in Italia avevamo appunto la Juventus. Il calcio inglese si prepara a incontrare la Juventus con l'ansia di non riuscire a controllare i propri tifosi, che spesso si scatenano più in terra straniera che in patria. Ma l'11 maggio dell'85, a pochi giorni dalla finale, l'Inghilterra viene colpita da una tragedia gravissima. A Bradford, durante una partita di terza divisione, alcuni striscioni bruciati dai tifosi sugli spalti di legno del vecchio stadio provocano un incendio che rapidamente si propaga all'intera struttura, facendo crollare il tetto sui tifosi in fuga. Alla fine si conteranno 56 morti. La notizia rimbalza in tutta Europa e anche se non si può attribuire questa tragedia alla violenza degli hooligan, non fa che aumentare lo stato di tensione non solo nei tifosi della Juventus, ma anche nelle autorità belghe che si stanno preparando a ospitare la finale della Coppa dei Campioni. La partita, infatti, ha luogo il 29 maggio 1985 a Bruxelles. Lo stadio prescelto per ospitare la partita è lo stadio Heysel. Destini incrociati. Destini incrociati, oggi alle prese con la storia di due campioni che hanno realizzato il loro sogno di bambini: giocare a calcio in una squadra prestigiosa e provare a vincere il trofeo più ambito, la Coppa dei Campioni. Sono Gaetano Scirea e Phil Neal, che ormai sono prossimi al loro incontro per la partita della finale. È una bella serata di maggio a Bruxelles. Lo stadio dell'Eiselle ha iniziato a riempirsi dal primo pomeriggio. I tifosi juventini e quelli del Liverpool sono stati sistemati nelle due curve opposte. Ma qualcosa è accaduto la sera prima, come ricorda Giampiero Boniperti. La sera prima erano successi fatti veramente impressionanti da tenere in considerazione per il giorno dopo. Gente che picchiava, gente che aspettava il tram venivano malmenati, vetrine rotte. E questi qui non hanno fatto niente, l'UEFA non è intervenuta, la polizia non è intervenuta. Gli hooligan sono in città. È complice la polizia belga, che si dimostra impreparata, disorganizzata. Gli atti di vandalismo si moltiplicano e la birra scorre a fiumi. La televisione però è l'unica fonte di informazione e non viene data nessuna notizia a questo riguardo. Non ci sono i telefonini, non c'è Facebook, come osserva Carlo Nesti. Si viveva un mondo a livello di comunicazione, un mondo mediatico completamente diverso, come se fossero 100 anni fa rispetto a oggi, in confronto a quello attuale, nel senso che non c'era internet, non c'era la telefonia cellulare, c'era una circolazione delle notizie in assoluto molto molto molto più lenta, quasi pachidermica rispetto a quella di oggi. Lo stadio Eiselle è una struttura vecchia, fatiscente, non certo adatta a ospitare una finale di Coppa dei Campioni. Le gradinate in cemento si sgretolano, lasciando per terra a disposizione di tutti frammenti che possono facilmente essere lanciati in campo. Le reti di protezione che dividono i settori sembrano delle reti da giardino, e anche dall'esterno dello stadio, a causa di alcune impalcature lasciate incustodite, è possibile arrampicarsi e far entrare all'interno dello stadio bottiglie e altri oggetti pericolosi. Alcuni tifosi juventini, per carenze organizzative sulla vendita dei biglietti, vengono fatti entrare nel settore Z, proprio la stessa curva in cui hanno trovato posto i tifosi del Liverpool. Un'ora prima dell'inizio della partita, alcuni tifosi del Liverpool iniziano a ondeggiare in modo offensivo verso il settore Z. Gli italiani, non facendo parte del tifo organizzato, sono spaventati e anziché reagire indietreggiano, si ammassano sul lato opposto, dove la tribuna finisce con un muretto di protezione. A seguito dell'ennesima carica degli hooligans, il muro cede e i tifosi precipitano uno sull'altro, rimanendo schiacciati. Alla fine i morti sono 39, di cui 32 italiani. Accanto a me il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Mentre l'interno del rettangolo di gioco viene invaso dai tifosi in fuga dal settore Z, le squadre del Liverpool e della Juventus sono chiuse nei loro rispettivi spogliatoi, aggiornate in modo continuo ma confuso sull'evolversi della situazione, come ricorda l'allora direttore sportivo Francesco Morini. Quando sono entrato nello spogliatoio, alcuni erano seduti con la testa tra le mani che piangevano, altri che vomitavano, altri avevano fatto già la doccia e pronti per andare a casa, cioè psicologicamente era una situazione per non poter giocare. I dirigenti delle squadre, gli arbitri, i delegati UEFA e i responsabili della sicurezza belga sono riuniti in una saletta dello stadio e stanno cercando di prendere la decisione più logica per evitare che gli scontri tra i tifosi accorsi per vedere la finale di Coppa tra Juventus e Liverpool possano provocare più danni di quelli che sono già avvenuti. Alla fine si sceglie di disputare comunque la partita, soprattutto per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico. L'UEFA conferma inoltre che il risultato dell'incontro sarà quello ufficiale e avrà validità a tutti gli effetti. Io so perfettamente che mio marito diceva che loro non erano al corrente dei 39 morti, che prima della partita in effetti avevano visto nel corridoio degli spogliatoi portato dei feriti, no? Dei feriti, dei ragazzi, dei giovani feriti, ma effettivamente la gravità e la drammaticità, voglio dire, di quello che era successo o stava succedendo in questa famosa curva Z, loro assolutamente non erano al corrente. Scirea è seduto sulla panca dello spogliatoio, in silenzio. Ascolta, osserva, cerca di capire che cosa accadrà. Accanto a lui, Michel Platini ha già fatto la doccia, si sta rivestendo. È convinto che non si giocherà. Quando poi, nello spogliatoio, arriva la notizia della decisione della UEFA, cala il silenzio. Nello spogliatoio dei Reds, intanto, la porta rimane chiusa. Si sentono grida, gente che corre. Ogni tanto qualcuno si avvicina alla porta e grida, chiamando i giocatori del Liverpool assassini. Phil Neal è seduto accanto al portiere Grobler, famoso per la sua personalità, che lo porta a scherzare con tutti e a prendere in giro l'avversario. Ma in questo caso anche il suo volto è serio e Neal rimane in silenzio, continuando a sistemare in modo nervoso i lacci delle scarpe. Poi, all'improvviso, la porta si apre ed entra il delegato UEFA. Improvvisamente entrano i responsabili UEFA e dicono di aver bisogno di parlare con il capitano, cioè chiedono di me. Io mi alzo e dico, eccomi, cosa devo fare? E loro mi dicono, bisogna leggere un comunicato all'altoparlante dello stadio, ci sarà anche il capitano della Juventus. Shirea e Neal vengono prelevati dai rispettivi spogliatoi e accompagnati nella torretta dello stadio da cui vengono effettuati gli annunci pubblicitari. Mentre camminano nel tunnel dello stadio, incontrano medici, poliziotti, gente ferita. Ogni tanto i loro sguardi si incrociano, ma solo per un attimo, perché vengono distratti da altri feriti e da persone che li prendono per le braccia e li spingono verso una stanza. Poi il responsabile della gendarmeria belga consegna loro un foglio in cui è stato scritto un breve comunicato da leggere all'altoparlante. Ancora una volta gli sguardi di Neal e di Shirea si incrociano. Neal solleva le spalle in segno di sconforto. Shirea guarda fuori dalla vetrata il campo da gioco invaso dai tifosi. Quell'incontro sa di destino, ma un destino che travalica le semplici vite di due giocatori. C'era incredulità, senso di responsabilità, ma anche incredulità. Da buon soldato, e fece benissimo, Shirea obbedì e si incaricò di leggere questo messaggio. Nesty lo ricorda così. E nelle parole che Shirea sta per pronunciare si sente tutta quella responsabilità. Conoscendolo, quindi essendo sua moglie, avendolo sempre vicino, quindi avendolo frequentato, capivo attraverso il suo così la sua voce la grande preoccupazione, ma soprattutto la grande infelicità. Aveva una voce rotta, una voce che leggeva questo comunicato, secondo il mio punto di vista, senza pensare effettivamente a quello che stava dicendo. Io ho avuto questa sensazione, ma poi mi è stato confermato nel momento in cui lui è tornato poi in Italia. Anche Neal si avvicina all'altoparlante, ma improvvisamente decide di fare di testa sua. Ciò che sta succedendo è troppo anche per lui. Guarda il foglio che l'UEFA gli ha appena consegnato, ma non lo legge, lo accartoccia e lo butta a terra. Vuol dare retta al cuore, così con le parole che si strozzano in gola chiede ai tifosi semplicemente di calmarsi. I due giocatori vengono poi riaccompagnati verso lo spogliatoio. Davanti alla porta dello spogliatoio juventino, Neal si ferma e si gira verso Shirea, appoggiandogli una mano sulla spalla. Shirea lo guarda e gliela stringe senza dire nulla. Poi i due si lasciano, mentre fuori il mondo sta ancora impazzendo. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily. Are filling up their glasses, no expression, no expression. Destini incrociati. Gaetano Shirea e Phil Neal. I due capitani di Juventus e Liverpool si sono appena incontrati per leggere il comunicato che la UEFA ha consegnato loro al fine di sedare gli animi dei tifosi durante la finale di Coppa dei Campioni allo stadio dell'Eisel a Bruxelles. Un incontro unico e fondamentale, che va al di là della loro vicenda personale e professionale. I due campioni si guardano ripetutamente negli occhi. Al posto di 100 domande e nessuna risposta, solo gli sguardi di due uomini di sport che hanno molto in comune, compresa l'enorme tragedia che stanno vivendo in quella notte maledetta, dopo la quale niente potrà mai essere come prima. La partita finisce 1-0 per la Juventus. Il rigore di Platini sembra a molti un regalo alla squadra bianconera perché viene commesso fuori dall'area. Marcello Chirico, juventino doc, commentatore televisivo e giornalista, ricorda così quell'azione. Io ricordo quell'azione, quel lancio di Platini di 40 metri che va a pescare precisissimo Boniek, Boniek che si invola verso la rete, verso la porta avversaria, sta per entrare in area. Io ricordo tanti gol fatti da Boniek così, di sicuro se non l'avessero atterrato avrebbe molto probabilmente segnato. Alla fine della partita i giocatori ricevono la coppa nello spogliatoio, senza la cerimonia ufficiale, ma poi vengono obbligati dalle autorità ad andare sotto la curva, a festeggiare con la coppa. Tutto deve sembrare il più normale possibile. Io avevo degli amici che erano presenti allo stadio dell'Eisel ed erano praticamente dalla parte opposta della curva Z. Nessuno si è reso conto di quello che stava succedendo, avevano visto in effetti che c'erano stati dei tafferugli, ma pensare veramente a così tanti feriti, ma soprattutto così tante vittime, nessuno lo sapeva, ma tanti lo hanno poi saputo al ritorno in Italia, perché finita la partita, che sono stati accompagnati dalle forze dell'ordine verso le autostrade, verso gli aeroporti, non hanno capito effettivamente quello che era successo. Poi tornati in Italia si sono resi conto della gravità, voglio dire, della giornata. Le autorità locali vogliono riuscire a evacuare lo stadio nel modo migliore possibile, senza che vi siano altri scontri tra le due tifoserie, sia dentro che fuori lo stadio. La squadra del Liverpool è la prima a lasciare lo stadio maledetto. Durante il viaggio di ritorno, tutti sanno che come squadra, come giocatori in una partita ufficiale, quella del 29 maggio è l'ultima partita, consci della pesante squalifica a cui vanno incontro. Più di tutti ne è convinto Phil Neal, da capitano della squadra, che ha ancora nelle orecchie gli insulti ricevuti, la gente che li chiama assassini. Bisogna rimuovere tutto per superare questo trauma. Infatti la finale dell'Eisel è l'ultima delle partite giocate da Neal nel suo Liverpool. Mister Coerenza ancora una volta capisce che lui, con questo tipo di calcio, non vuole avere niente a che fare e in silenzio si mette da parte. Noi abbiamo vissuto per mesi e mesi che di notte questa immagine che io avevo vissuto attraverso il racconto, no, del cronista in televisione, e invece mio marito, che l'aveva vissuto in prima persona, no, come primo attore, ci aveva lasciato dei momenti veramente di sconforto e di panico. Noi abbiamo vissuto veramente per mesi e mesi che alla sera, quando si andava a dormire, il pensiero vagava sempre. Avevo sempre questo televisore davanti, mentre mio marito credo che si sentisse in qualche modo forse responsabile, involontario, no? Della tragedia. Spesso credo che si sia domandato il perché di questa cosa, ma soprattutto cosa si poteva fare forse per evitare questa grande disgrazia. A seguito dei fatti dell'Eisel, le squadre inglesi vengono bandite dalle competizioni europee a tempo indeterminato, chiudendo il calcio d'oltremanica in un isolamento che ha però consentito alle autorità britanniche di rieducare i tifosi e controllare il fenomeno dell'hooliganismo. La riammissione del calcio continentale avviene nel 1990 e proprio ai mondiali italiani le due nazionali giocano la finale per il terzo e quarto posto, condividendo il podio in un unico grande abbraccio. Phil Neal, dopo aver concluso la sua carriera di giocatore, diventa allenatore, ma oggi è tornato a lavorare ad Anfield, con ruoli di rappresentanza all'interno della squadra che gli ha dato tutto, nel bene e nel male. Della partita maledetta non ne vuole più parlare, La sofferenza è stata troppo forte e la ferita è ancora aperta. Quello sguardo triste scambiato con Shirea negli spogliatoi lo si può ancora vedere sul volto di Neil in una foto scattata accanto a Sergio Brio davanti alla targa commemorativa dei 39 morti dell'Eisel scoperta nel rinnovato stadio belga in occasione dei 25 anni dalla notte della follia. Scusate, dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A che verrà comunque ripresa tra poco per una ragione veramente tremenda. È morto Gaetano Shirea in un incidente stradale avvenuto in Polonia dove si era recato per seguire la squadra che sarà prossima avversaria della sua Juventus. Come comunica Ciotti, Gaetano Shirea ci lascia il 3 settembre del 1989 per un fatale incidente. La moglie, dopo tanti anni dalla scomparsa, tiene vivo il ricordo di quell'uomo speciale. Sì, io devo dire, io mi emoziono sempre parlando di mio marito. Guarda, io sono passata ormai 22 anni e io lo vivo giorno per giorno, cioè non c'è un momento probabilmente, no? Quando si parla di Juventus, quando si parla, ma di qualsiasi cosa, che lui non sia presente nel mio ricordo, nella mia mente. Ma proprio perché lui è stato una persona che, pur avendo vissuto con me solo 13 anni, però devo dire che sono stati 13 anni talmente intensi che la mia soddisfazione è proprio una gioia. Gaetano Shirea se n'è andato troppo presto. Sono molti a dire con sincerità che avrebbe avuto una brillante carriera come allenatore o come dirigente. Un esempio per i giovani, ma anche per i suoi colleghi. A Torino la Juventus ha pronto il nuovo stadio e la curva sud è intitolata proprio a Gaetano Shirea. A Cinisello Balsamo gli amici d'infanzia di Gae si sono riuniti attorno a un tavolo dell'oratorio dove con lui hanno tirato i primi calci a un pallone e dal 1989 organizzano un torneo di calcio giovanile, il Memorial Gaetano Shirea, al quale partecipano squadre provenienti da tutta Europa. Il torneo ha la finalità di promuovere i valori di lealtà ed etica che hanno caratterizzato la carriera di Shirea per mostrare a tutti che c'è un'altra possibilità di vivere il calcio. Abbiati, Montolivo, Quagliarella, Pirlo, ma anche Van der Vaart, Schweinsteiger e Schneider sono solo alcuni dei bambini passati da questo torneo che hanno poi raggiunto l'Olimpo del calcio. Ma se camminate vicino a quel rettangolo verde circondato dal cemento, forse potrete sentire ancora le voci di Gae e dei suoi amici mentre inseguono il loro sogno. Pensa a chi non ha avuto la possibilità, no? di viverle quelle emozioni, quelle sensazioni. Almeno io ho il ricordo di averle vissute. Infatti, cioè questo suo comportamento, questa sua vita semplice, era dettata proprio dalla sua serenità, questo amore che io ho nei confronti delle persone, no? Nei confronti dei tifosi juventini, ad esempio. Io non dimentico il loro affetto, anche se a distanza, ma lo sentivo, perché mi scrivevano lettere, mi mandavano messaggi. E quando sono in mezzo a questa gente, mi rendo conto che, non so come dire, ma mio marito non mi ha lasciato sola. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.